Media Sound, 33 Sound, Bunker Studio, baby. Scrivo un giallo come Agatha Christie, partenza express con l'occhi pisti. Fai un'altra mista messicana, piccia e fuma come un figlio di puttana. Bong dopo bong, song dopo song, stiamo allucinati con gli occhi da Vietcong. Ogni giorno in una giungla di cemento, sembra di San Bici, sempre contro vento. Ma l'HKS si spingemo, e la vostra merda manco la vedemo. Come una puttana vedi sprezzo, ecco perché metto l'odio in ogni pezzo. Ho bestemmiato in piedi una canzone come sfogo sulla chiesa e questa nazione. E lo farò per levare lo stupore fino a quando ogni bestemmia non faccio più scalpore. Dio non esiste ma bisogna bestemmiarlo, nella speranza che ci sia bisogna farlo. Domando che se c'è prima che la vita perda, ieri in faccia almeno un po' di tutta questa merda. Che vedi ogni giorno e non lo puoi negare, se sta crisi del cazzo non lo puoi fermare. E se vedessi le mie tasche come imprecano, sapessi i PD che in casa mia si sprecano. Spinge sempre stile, HKS, chiudo cartine e rime e le faccio spese. Qui per Roma stiamo sempre in giro, trepiccio la canna e famo un altro tiro. Adesso raccolta, avevo io tutti qui, tutti in fissa per nuovi stili P. Raccontiamo la realtà senza storie disconnesse. This is the style of HKS. HKS, rime spesse, devastanti come l'SS. Amico chiama l'SOS. Leggi testi per SMS, a chi credi d'essere, non porto la tua veste. Fallisci come MSN, spammo anche per MMS. Calo con or, vado sempre più su. Bro, sto al top, sere come top of the pop. Calate sempre le più. Fiato non maregge più, ma spingo, spingo il nome del mio film. Non conta l'età, ti sbaglia. Amico, 16 anni, vola mia età, non giravate senza meta. Facevate la metà di tutti i miei danni. Vi mandavate messaggi col cuore sincero. La cronaca, tanti assaggi. Cronaca romana, prima pagina del Messaggero. Hardcore di Genervo, il nostro stile su ogni tetto. Vi lascio il resto. Devasto quando esco, del resto devasto spesso. A voi vi detesto, non mi avete scoperto. Vi disprezzo, flop a volto coperto. Chiacchierona, non aprire col mio nome studio aperto. Non aprire col mio nome studio aperto. Spine sempre stile, HKS, chiudo cartine e rime e le faccio spese. Qui per Roma stiamo sempre in giro. Trepiccio la canna e famo un altro tiro. Adesso raccolta, avevo io tutti qui. Tutti in fissa per nuovi stili P. Raccontiamo la realtà senza storie disconnesse. This is the style of HKS. Spine sempre stile, HKS, chiudo cartine e rime e le faccio spese. Qui per Roma stiamo sempre in giro. Trepiccio la canna e famo un altro tiro. Adesso raccolta, avevo io tutti qui. Tutti in fissa per nuovi stili P. Raccontiamo la realtà senza storie disconnesse. This is the style of HKS.